passava la stagione dei ciliegi, ci portava a far l'amore. Morivano le rose dai ciliegi, ci portavano a sognare. Il fiume svelto, la tua bocca, il nostro sole, li potrei ridisegnare. E le scarpette piccoline di cotone le saprei ricolorare. E quando i soldati ci han trovato siamo riusciti anche a volare. E quante grida e quanti colpi che han sparato, amore mio, non ci pensare. Poi mi hanno preso e mi han portato qua, io, traditore della Cina. Nemico della libertà, rai, rai, rai, rai, rai, rai. Nemico della libertà, rai, rai, rai, rai, rai, rai. Nemico della libertà, rai, rai, rai, rai, rai, rai. Nemico della libertà, rai, rai, rai, rai, rai. Passava la stagione dei ciliegi, mi portava a faticare. Cadevano le rose dai ciliegi, mi portavano a sudare. Il passo svelto, i pugni in faccia e quel furgone, li vorrei dimenticare. E le manette aggrovigliate sul mio nome, non le ho sapute più sbrogliare. I soldati mi han spiegato, ti avrei voluto salutare. Si sa, dai campi del lavoro non si può mica scappare. Poi mi hanno preso e mi han sbattuto qua, io, debitore della Cina. Nemico della libertà, rai, rai, rai, rai, rai, rai. Nemico della libertà, rai, rai, rai, rai, rai, rai. Nemico della libertà, rai, rai, rai, rai, rai, rai. Nemico della libertà, rai, rai, rai, rai, rai, rai. Passava la stagione dei ciliegi, mi portava a giustiziare. Crollavano le rose dai ciliegi, mi portavano a morire. Il sangue svelto nelle braccia e dentro al cuore, lo potevo anche sputare. Le maledette quelle scale di cartone, acuminate come il sale. E quando i soldati mi han bendato, non ho saputo che tremare. Quando il fucile ha fatto fuoco, amore mio, non ho saputo che gridare. Poi mi hanno preso e mi han gettato qua, io, oppositore della Cina, nemico della, nemico della, nemico della libertà, rai, rai, rai, rai, rai, rai, nemico della libertà, rai, rai, rai, rai, rai, rai, nemico della libertà, rai, rai, rai, rai, rai. libertà. Ciliegi.